facendo un paio di regolazioni. Come il segnale è sempre buono. Dottore, è tornato facendo 7 secondi, dopo aumenta di tutto, arriva a 9.15 addirittura. Adesso c'è il 2.9. Quindi vabbè, se faccio così. meno di 9, 7,6, come te fa? Thank you. siete attorno un po' di disturbi di frequenza, dai, basta, sei tranquillo un po' dietro, ma quando segnale basso, quando aumenti lo schiacci. Sento rumore io. Sta usando 20 watt, la testa maletta quasi, boh, aspetta, gliela regolo. capito, perché altrimenti non fa avere un segnale tutto sfasato, capito? Allora gli ho regolata perfettamente la mia. Sì, sì, sì, è più equilibrata. Certo che sì. Ecco qua, dai, a posto. Veia, già una buona radio, dai, capita. No, già va bene anche questa, dai, non posso lamentare. Anche in ottime condizioni, già va bene. Così quanto c'è per insegnare, guarda un po'. Così è 10 watt della parata. 7,5, sì, quasi 8. E come ti stavo ascoltando, proprio fa collineare, la stessa differenza, dai. Vieni a fare la 10 a 50 a fare la passata. Sì, vediamo Giuseppe quanto mi arriva, Giuseppe. Ok, io ti confermo l'8 questa volta, è l'8. Hai migliorato tantissimo, hai toccato qualcosa? No. Ok, va bene, lascia tutto così e non tocchi. Ha toccato qualcosa? Cosa? Ha modificato qualcosa in questi giorni? Prova a fa. No, ho chiesto se Giuseppe se ha toccato qualcosa questo fine settimana. Lo scendo, sì. Sì, stava parlando Giuseppe o... niente, è che evidentemente non lo sentivo io, adesso lo sento. Sì. Stavo cercando l'antenna, sono passato lì da quella zona che mi hai detto tu, ma non l'ho vista, posso... in che zona c'è di preciso? Fra, lui è di fronte alla chiesa di Sant'Agostino, proprio di fronte, non c'è da sbagliare, dove c'è il supermercato la Sisa. Ah, quindi dov'è Sant'Agostino? Ah, su in alto qui, la parte alta. Dove c'è la chiesa? Ho capito, Questo stavo pensando alla zona, io quindi stavo sbagliando zona io. Dove c'è la chiesa di Sant'Agostino? Per andare su a cosa? Come te lo posso dire? Vabbè, Sant'Agostino alto, dove c'è la chiesa? Proprio di fronte alla chiesa è lui. Salendo tu la chiesa te la trovi davanti, lui ce l'hai diciamo, sulla sinistra. Esatto, fra. Quindi non è una zona bassa quella, io pensavo fosse zona lì, dove era la zona lì, vicino ai carabinieri. Dove vicino ai carabinieri? Già c'è la zona buona, sì, non è che c'è un'antenna in plastica. Beh, ma dove c'è l'antenna? Non è sul tetto, no? Sì che è sul tetto l'antenna, e allora? Guarda che non arrivi bene qua a Sassari, boh. Ah boh, e cosa vuoi dire? Non lo so. Dammi un secondo da mangiare a Filippo, un minuto solo. Via. No, gliel'ho già dato Anna, vai. Ok. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare su questo canale. Avanti, cambio. Non c'è sta nessuno. Lui proprio non mi sente niente, no? No, non ti può mai sentire. L'unico che sente a me a Marco. Gianni, Antonio non lo sente neanche, capito? Non sente, no. Non fa. Oh, fra. Dammi un ultimo controllo. È calato il segnale, è rimasto stabile a 9. Sì, leggermente è stato a 9. Mi sta benissimo perché la potenza è quasi equiparata alla mia, capito? Giampere, sono. Sì. Giavine Ampere. Ok, va bene. Sei circa 9, leggermente scarso, con i picchi però positivi, molto positivi. No, si sente bene. Ok, l'importante è che si senta bene, fra dai. Giuseppe, vieni avanti. Sfasciando la radio, capito? A me viene la radio a sfasciarle. Però poi riesco sempre con un po' di culo a avere il risultato, Giuseppe, capito? E allora, sfascia la radio, sono. No, non riuscivo, non vedevo il trimmer di regolazione, che mi sono mezzo cieco, no, mi sono messo gli occhiali, quelli più grossi e l'ho trovato, la sigla, e l'ho regolato, adesso è uguale praticamente al mio che è stato previsionato, e quindi la taratura è giusta, capito, l'ho fatto adeguato a quello, Purtroppo bisogna far Sant'Arrangia di nomi, se no guai, vero, bravo. E allora? anche a volte quando vedo qualcosa li faccio qui, una fotografia col cellulare, poi la zoomo. E io diciamo che in linea di massima ho fatto così, giusto per darglielo un po' più in ordine, ho messo la lampadina, le cose che mi ha chiesto, ho fatto una pulitina, c'è tutto senza viti, chitarrati, boh. Se oggi compri se ci rimangono i viti, boh. Che modello è? È una vecchia carcassa simile alla mia. Un po' più datata? Forse qualche anno prima, certo, qualche anno insomma, è stata fatta un po' prima, un po' vecchiotta, però in buone condizioni dentro. Caspita. Non c'è in buone condizioni, dai. C'è anche un filo staccato, però ho provato a attaccarlo, adesso devo prendere lo schema e controllare dove è staccata questa spinettina, perché se la inserisco fa un rumorino che non mi piace. Voglio capire il perché, però adesso non ne ho più voglia. Sono poi con gli occhiali, forzo la vista, mi fanno male gli occhi ed è un casino. C'è lo schema, c'hai da? Sì, beh c'è il suo schema blu, che vado a vedere questo filo dove è che è staccato, c'è una spinettina staccata che non mi convince molto. Capito? Perché c'è proprio la sede vicina dove c'è l'attacco. Ma quando sei buono nei mani, non venuta la fa. Dai, il maschio femmina, no? Sì, con le spinettine bianche. Non mi convince che quella debba rimanere staccata. Devo andare con calma a vedere. No, non dagli più gana. Mi sono divertito, vai. L'ho fatto letteratura, c'erano da fare, adesso vabbè. Lo segnale è uguale. La potenza l'abbiamo regolata. Perfetto, con la T230. Ok. Adio. No. Dovrebbe essere a posto, va. Non è a posto? Aspetta che mi ha chiamato, non è a posto. Dovrebbe essere a posto, detto. Ah, ma avete aspettato che ho compreso, non è a posto. Dimmi Massimiliano. No, sono Luigi, lo sto facendo cosa, sono entrato così. C'è uno che da poco fa che mi sta chiedendo se potete dare un controllo del radio. Sono solo di passaggio però, ciao Claudio. Vedi un po' fatto se riuscite a sentirlo, vi sta sempre chiedendo, però date poco spazio, se gli date un controllo del radio, non so chi sia. Ma io mi sembrava che non lo senta, vediamo un po', perché anche poco fa ho detto chi vuole entrare sul canale 10 non hanno risposto, avanti sul canale 10. Gigi, io non lo sento, eh. Aspetta, chi è questo che sta chiamando a Luigi? Non stai uscendo come devi uscire, per quello che non ti sento, no, lui. Non stai uscendo come dici, ecco perché non ti rispondono. Ehi, vabbè, poi ci sentiamo dopo, lui. Non sapevo che tu sentivo questo basso e per quello non ti sentivo. No, non stai andando, bruci tutto, occhio, non continuare a fare niente. Poi ci sentiamo, dai, ti faccio una bassa. Oh Claudio, scusa per le cose, dai. Sto facendo altre cose e non sapevo neanche che fosse questo ragazzo qua vicino a me. Ehi Gigi, lo sai che la torre sente a tutti, ma se non arrivi non lo posso rispondere. Tu lo senti perché è vicino a te. Positivo, dai, riprendete, salutando anche gli altri colleghi, gli altri amici, dai. KGG, non problem, siamo qua. Se ti vuoi trattenere siamo qua. Avanti, fra. Chi era Gigi? Sì, Gigi Vulcano. Riuscivo appena a sentirlo, però non capivo tutte le parole. Che zona è? Vabbè, tu c'hai con l'antenna piccolina, ma qua è 9.15 con picchi a 20, Gigi, come sempre. Vedi, il suo segnale. Finalmente. Stavo dando un po' fastidio sta radio, Gigi, ma che hanno mai che i segnali sono tutti a brocco, uno basso, uno alto, uno basso, uno alto, boh. KK. No, ma se lo tari come il tuo, di conseguenza, appresso vengono anche gli altri, dai. Vabbè, certo che sì. Sono rimangai, dov'era? Dov'è? Gigi? Le punti? Le punti, scusa, ottava. No, ottava, mi ricordavo mancare. No, era ottava. Ma è ottava, anche Marino qua non arriva bassissimo. L'ho tutto il palazzo di fronte io. Marino non lo so che antenna c'ha, Ma non lo so neanche io, però anche lui arriva basso. Lo sento meglio col portatilino. Non so che antenna usi Marino. Io qualche volta l'ascolto sul canale 20, arriva a poco più di 9. Capito? Qua a casa, poi lì da te, non lo so. Avanti Giuseppe. Sì, questo Franco che sta parlando con me è un tuo ex dipendente, o meglio dire un tuo ex rompipalle. Certo, è uno di quelli che da Palermo l'hai portato a Sassari, ti ricordi? Sì. Infatti mi dispiace tantissimo che non lo senti, perché lui c'ha un'antenna piccolina, capito? Giusto per fare due chiacchiere a casa. Comunque ti saluta molto, molto, molto cordialmente. Abita in Viale Sicilia, proprio di fronte alle ferrovie dove eri tu. Infatti è l'unico dipendente che andava a piedi a lavorare, vero? No, ci vado ancora. Cazzo, ci vai ancora a piedi, quindi già non ho sbagliato. Io l'ho detto scherzando a Giuseppe, ma già è così. Scendo con la liana, scendo. E beh, sei di fronte, Giuseppe. Ci avete lo stesso segnale con Giuseppe, Ofra. Anche lui adesso sta arrivando, 8 con picchi positivi. Come stava arrivando prima? Chissà cosa era toccato. Qualcosa hai fatto, Giuseppe, perché non ti sentivo niente. Santiago 3 arrivavi. Sicuramente hai saldato bene PL. Qualche PL in corto avevi, perché io ti sentivo basso, basso adesso sì. Col segnale come ti sentivo prima con l'altra antenna. Capito? Forse anche un po' meglio, non lo so. Devo verificare bene perché questa non è la radio mia. Ok, riprendi fra un attimino che mi è arrivato un messaggio. Ciao, vai. Beh, io che ripeto, sono attento nessuno. Aspetta, dammi un secondo solo, Vale, Franco, che mi è arrivato un messaggio, che sennò non ci capisco niente. Ciao, Valerione, dove sei, a casa? Ma si è agganciato? Allora, già segnale, già va bene, dai. No, ci sono problemi. K. A me come mi stai ricevendo? Bene? Ok, dai, vabbè, la potenza è un po' abbassata, no. Era malettone sta radio, l'ho regolata. Adesso il massimo che dà sono 100 watt, se il minimo sono 5, 10, prima di tua manetta. Va bene, va bene. Bene, mi arriva Giuseppe adesso, mi arriva Giuseppe. Evidentemente stava uscendo senza PL, leggermente più basso ti arriva. Vabbè. Qua mi sta arrivando, qua mi stava arrivando prima, linea di massima, è quello il segnale. Oh Giuseppe, non vuoi un lineare più grosso? Un lineare più grosso lo vuoi? Il più grosso è quello, da 300 watt. Mi hai capito sì o no? Guarda, la sedia è caduta, ok. Una direttiva gli piantiamo. Ah, che glielo do io, da 300 watt. Già va bene, cosa? Non c'è ne problema. Se lo vuole, ci mettiamo d'accordo. È nuovo, nuovo, eh. Allora, volte, Giuseppe. Cosa? E tu mi mandi soldi? 250 euro, lo vuoi? Valerio, vieni a prendere il lineare e portalo a Giuseppe. Glielo colleghi e poi mi porti i soldi. La moneta. Non batte ciglio, Fra. Non batte ciglio, Giuseppe. Non batte ciglio. Per l'età che ha lui, non batte ciglio. No. Aspetta. Eccomi qua, scusate che ero... Mi sono dovuto allontanare un secondo. Sì, Giuseppe, un 220, È un 220, un 220 transistorizzato, Della ZG, nuovo, nuovo. Capito? È nuovo, nuovo. È 220 transistorizzato. L'MFM. Quindi attacca la presa, sempre con i pomelli. Sarà simile a quello che hai tu. No, quello è transistorizzato, però da 220, quindi attacchi la presa. Non ha bisogno di alimentatore, capito? Attacchi la presa, perché c'è il trasformatore dentro. Al trasformatore all'interno, capito? È bello, è nuovo, nuovo. È nuovo, nuovo. Capito? Ed è una bella bestiolina. Una bella bestiolina. Allora, te lo mando da Valerio? Giuse. Va bene, dai, gliela metto d'accordo, dai. Io non ce la faccio a salire. Poi, quando scendi, passi. Le stacchi quello che c'ha e le attacchi quello, non c'è problema. Tanto è transitorizzato lo stesso, tu hai bisogno dell'alimentazione, questo invece lo attacchi alla presa 220 e basta. Va bene, va bene. Franco, riprendi, aiuto. Che sigla c'ha quella roba? È un BV 2001. B507, ma sono simili? Un B507, cosa che detto l'armadio questo? Forse è un B507. Il mio è così. Quello transistorizzato? Sì, direttamente a 220. 507. 507, non 2001. Sto confondendo con l'altro, che c'è. Vai da me, adesso. Tutta la roba che va, ho giocato un casino. 507, B507, vale. Vale. Cazzo, vale, mi è sparito. Invece è arrivato nel 300? Sì, aspetta, te parlate in due, fra. Dimmi, Giuseppe, se sta dormendo, e poi se si ha il telefono, là. Sì, sì, sì, 300, 350, li tirava fuori, adesso da un po' fermo, capito? 300, 350 buoni li tira fuori, non c'è problema. Dipende anche dall'antenna, no? Beh, dall'antenna, dal pilotaggio che le dai, capito? Ma io lo pilotavo con l'altra radio che dà 10 watt, con quella che ha Giuseppe che ne dà 4, 5, ne darà 300, 250, ma non ne date 60, 70, metti che su cui vanno. Ma quale solo sto pilotando con 10 proprio? Con 10 watt quanti te ne dà? Adesso alla prima da 1, ti dà 43, con picchi fino a 55. E sempre, lo usi sempre a uno? Sì, sì, sempre a uno. Sì, vabbè, l'antenna che hai non è dare altro, ma Giuseppe già c'è l'antenna buona, quindi già si può fare, dai. Ma va bene così, che aumenta quelle due stacche, due segnalini in più. E infatti, qualcosa in più aumenta. Va bene. Allora Giuseppe, fatto l'affare, ma io non sto scherzando, se lo vuoi. Io vabbè, se non scende, mi sacrifico e salgo io, non è quello il problema. Capito? Mi sacrifico e salgo io, Giuseppe. Perché quello che è troppo piccolo, devi arrivare forte qua, non c'è niente da fare. Devi arrivare forte, boh, perché d'inverno col QRM che c'è, tu non ne togli i piedi. Quindi adesso aumentiamo la potenza e beh, va bene così, capito? E va bene così. E almeno adesso c'è l'antenna nuova, c'è tutto nuovo, c'è più potenza e sono sicuro che superi il 9, perché quello che hai da un'ottantina di watt e sì, già 8,5 quasi di nuovo, 8,5 quasi. Con quello dovresti arrivare oltre il 9, capito? Almeno ti sentono tutti. Sì, vabbè, se lo vedo un po', se scende Valerio, vabbè, se no salgo io, magari lo dico a Massimiliano, se viene a farmi compagnia, saliamo assieme, te lo attacchiamo e te lo portiamo. Sì, beh, ti avverto, certo che sì, ti avverto, Giuseppe. Il telefono dico, sei a casa, guarda che sto salendo. Ah, è vero che devo salire e scendere ad Alghero, sì. Sei tu che devi salire a Sassari. Abbai davvero attento, Vito l'avrà anche attento. Ma quello del servizio così rompiscatole? No, ma giustamente noi siamo finato di Alghero, Meno male c'è Franco che ti difende. Parlando sta. Dimmi, fa. No, se stava parlando adesso che non sentivo nessuno. Me ne vado lontanare, Cla, dai. Ti saluto per il momento e mi saluti anche a Giuseppe, dai. Si è posto di prendere più tardi. D'accordo, Cla, dai. Giuseppe, ti saluta Franco che si deve allontanare. Ci sentiamo dopo, Cla, ok? Ok. Ok, ti saluta Giuseppe, Cla, dai, ok? Allora, Giuseppe, stavo pensando io, se non viene Valerio prima, ci vediamo sabato pomeriggio, se tu sei a casa, ok? Io ti chiamo prima, ci vediamo sabato pomeriggio e te lo porto, va bene? A meno che, ti ripeto, non scenda Valerio prima a fare qualche commissione, allora è diverso, va bene? Però se non scende Valerio, rimaniamo d'accordo per fine settimana, perché così io sono libero, perché io sabato mattina sto lavorando. Come rientro dal lavoro? Mi carico tutto, subito dopo pranzo, come ho fatto l'altra volta, salgo, ti piazzo tutto e poi me ne vado. Va bene? Perfetto. Non tocchese, ma mangio io. Se devo fare spazio già lo faccio io, perché quello è grande, Guarda, grande più o meno quanto la radio che c'hai, più o meno, più o meno. Grande Giuseppe, non è un giocattolino quello, È un B507 della ZG. È una bella bestiolina. Già lo troviamo lo spazio, non ti preoccupare. Già lo troviamo lo spazio. Anche sopra il baracchino lo puoi mettere quello, non fa niente. Non ti preoccupare. Noi rimaniamo d'accordo, ci aggiorniamo telefonicamente, rimaniamo d'accordo per sabato pomeriggio, ok? A meno che non scenda Valerio. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mia moglie. Eccomi qua, c'è qualcuno? Sì, vabbè, che sei tu, non c'è problema, quello già, se lo sapevo che eri in ascolto, no? Sto cercando qualcuno da Tattari, a vedere se c'è, tutti drummiti già. Valerio che fine ha fatto? Attento Valerione. Cosa dire? Ah, così è. Non ho capito, Giuseppe, cosa hai detto. Lui c'ha una radio modificata, capito? C'è qualcuno a Tattari? Cambio? Siamo a Puglia. detta che cosa vende la tua archivio. Non ci vediamo. Ma sarà il mio cacciavite induttivo che ha fatto miracolo o che cosa? Yeah. sì. Ecco, è tornato alla normalità. Beh, evidentemente c'era qualche PL che non andava bene, sicuramente. Ok, vediamo un po' se ha... se l'ha collegato. Oh, Giuseppe. Io aspetto, lo starà collegando. Come pidendo male questa cosa, Giuseppe. Mi sono messo così senza impegno, senza niente. Ho fatto due regolazioni ai trimerini dell'autocontrollo delle DC che erano tutti spostati e poi ho regolato lo Smith che ti ho detto che praticamente rimaneva un po' più su rispetto a come deve andare, così, e c'è una bellissima modulazione, bella. Non si vede, già lo so, quello non è un problema da niente, quello dovrà risolvere lui, decidere cosa vuole fare, perché una volta che superi quell'ostacolo la radio va bene, peccato. Adesso vediamo, Giuseppe. Buonasera a todos, avanti Gianni Cap. cosa potente, sono tentando, cioè è partita con la macchina e ha toccato il panalino, e un macello, la tenenza da parte, il signore ha detto, con qui con l'amichevole, proviamo le assicurazioni, poi ho detto, intanto glielo cambio, perché la macchina è nuova, capito, si mettono a contromano, si mettono a chiacchierare, a fare, e cioè, siamo anni che lo stiamo dicendo, allora lui fa un contratto perché noi dobbiamo caricare nulla, ma se intanto la flotta è un sacco di labbra, la carrozzeria non sa un graffio, cioè un salario come li ha portato tutti perché gli scalino che ne sta qua, non più al cieco, capito, però proprio non c'è problema. Li prendi qua. Ciao Massimilia, non so chi già è salutato, io ti saluto. Ma secondo me non ti prende il baracchino, ti prende l'antenna. No, qua arrivo adesso, ero sempre rotto qua adesso, c'è la pelle messi male. Sì, Massimiliano, condivido. Se no fermo dalla pelle alla braccia, non va bene. No. Rimaniamo su quello che ci siamo detti al telefono, va bene così Massimiliano, non c'è problema, ognuno lo vedo io, va bene. Ok, cosa stai usando Capri 2? Ok, dai, ho sponderato il codice, non so perché ero in garage un sacco di la polvere, ma non ho li portato, li sto prendendo in giù, capito, questo è impeccabile, il nuovo comitato della fabbrica, lì non si l'ho portato il 9x4. E poi li prendo, li trovo e li rimetto nello scaffale, no? Perché come se lo aperto tutto il casino che ne ho portato da casa di Capri, e infatti ho messo quasi a posto le attrezzature, cioè avevo un po', cioè come l'ho visto, che questo lo porto, la scheda, ma che mi è tutto cromato, impeccabile, cioè, capito, e di un po', e poi io ne porto altri, giusto per vedere, perché questo non è da lasciare perdere, io gli stavo dando il console, e quindi ti arrivo bene, no, grazie. Sì, perfetto, 9+20 sera di 5, già, non c'è problema. Avanti il doppio. E scappa, non è attaccato già. Ok, no, ce l'ho qui vicino alla mia sinistra, pensa che ne ho creato un bellissimo salto, lo bello, ne avevo comprato tutti i pezzi da picco, ma me li ho tutti gli unici fatti dei piedi, cioè, solo per l'intanto che era in garage a cercarlo, ma bello, veramente bello, e mi metto qualche apparato quando volevo comprare, ma no, già ce l'ho qui già, solo che sono impegnato a calare il mio figlio, una cosa e l'altra, lì, basta che succeda questa cinta di roba, e mi hanno fatto un po' di tempo, ma no, già l'ho fatto, come no? Oh, ma non si può fare, signori, la concessione è nuova, pensiamo che avete fatto il pensamento qua, a gennaio, poi come ce l'ha fatto all'ospedale, me l'ero dimenticato, beh, in giugno potete con 6%, del 0,6% ogni mese che potete lasciare quella, poi non si può fare tutto, spedito tutto, fatto il pensamento di nuovo, ed eccoci qua. E allora già va bene, eh? Pagare la concessione, boh. Anche tu. Pure già ero convinto che l'avevo pagata, talmente ci avevo tutte queste cose dai giri, ero convinto di tutti, quella che avevo fatto nel 2009 e fino al 2016, convinto che l'avevo, perché ce li avevo in garage, che questo cosa, guarda, questo quest'anno non è, allora io ho pensato, pago il corno con la sanzione, invece quindi sono legato su Inter, mi sono e niente, fino a giugno andava benissimo, avevo una pescheria di sanzione, però da giugno decadete, quindi però lo posso fare la dichiarazione nuova, rimandarla lì, con la testa di riportamento, il documento di identità, però è partita, ho visto tutte le ricevute ed è a posto. E riprendiamo sui viaggi. Vale. Oscar Giorgio? Sì. Lì, di fronte a te, però di fronte c'è l'albero, c'è la di fronte. Ciao Valerio, buonasera, ben sentito, sì. Secondo me, Valerio, sai cos'era? Quella manta che avevo comprato, c'era qualche cosa che non andava, perché c'era un difettore. E ti dico che qui ha migliorato anche il segnale di ricezione, perché Claudio sta pensando scala. Di solito arrivavano 20, e anche Massimiliano, e c'era qualche cosa sulla manta, ma c'era sicuramente. E poi c'è anche piazzata così, non l'ho neanche alzata. Hai capito, Valerio? Quindi, sì, piano piano la miglioreremo, però che è successo, se iniziamo già a mettersi male tra poco, due giorni, e niente, l'importante è che essa. Ti rimetto il cambio, mi ascolti, no? Preoccupata, cioè non vuole avere problemi, va bene. La tua antenna sta disturbando. mano, appunto, basta. Ne mette un'altra piccolina e ciccia, ok? Cavaga, beh, mi dispiace, dai, perché quando uno vuole stare un po' in santa pace c'è sempre chi le rompe le palle, ma mi dispiace per Natalino. positivo, ora posso mi sentirmi. Tu sei all'Alghero proprio? Ah, tu già arrivi a bomba, là. Già, su quei secondi che devo controllare un tablet, non mi sta caricando. Riprendi due secondi, dai, arrivo su. Sì, chi è rimasto? Ma ci vediamo, l'ascolto. Chi è rimasto? Avanti, a chi tocca? A chi tocca? Tipo, non so, lo lo incassi, ecco, basta, ecco, lì ti fa l'antenna, se no, cioè, poi non ti vede la SIM. Comunque dice, ragazzi, ho detto che tutto me l'ho messo il telefono. Gli ho detto, signore, ci sono andato di sotto, e sono anche troppo onesto, guardi. Ma questo non è originale, ma io sapevo già che questo non è originale. Cazzo, l'originale costa 135 euro. Cioè, tutto il display con il touch, no? Il fram dove tu attacchi. Cioè, devi mettere solo la scheda madre, tutti i cavettini, basta, non devi fare altro. Dico, lo devi incollare. E lei lo sapeva già. E dice che gli hanno detto in questo centro Vodafone, dove hanno acquistato, che il telefono tu mi hanno messo. E tu dice, il telefono è fiammante, nuovo, non è manomesso come hanno detto loro. Comunque loro sono disonesti, perché io quando l'ho aperto con la ventosa, già, ci vuole la ventosa, perché loro questa hanno usato qualche oggetto a punta e si vede che è un po' scavato il telefono dietro. Ma adesso i telefoni non si possono, come fai a aprirli per cambiare la batteria con la Wii? Ma si può fare già, si scalda piano piano, si praticamente il tappo è attaccato col biadesivo, piano piano lo scaldi, poi con la ventosa lo tiri un po' e poi con un vitro di piano piano lo sollevi e lo levi. Poi c'è una specie di non so come la vuoi chiamare, ma c'è un traio, no, con delle viti, levi il vostro traietto e sotto c'è la batteria. Ma quindi si può sostituire la batteria, perché a me mi avevano detto che era chiusa ermeticamente. Ma cosa si può fare? Ma andare su YouTube, se tu hai dei dubbi, tu scrivi sostituire batteria, adesso Huawei P9, faccio un esempio P10, lo vedi, per forza si può fare, se la batteria si gonfia, ce lo devi buttare il telefono. Ma io c'ho il P10. Vabbè, P9, P10. Allucinante, boh, vabbè, comunque già, io già avrei preso anche nuovo il telefono, purtroppo mi è successo questo incidente, ma non per colpa mia, io la batteria la stavo staccando e poi per essere pronto ad attaccarla al nuovo display, e la batteria di un fuoco, cioè un bittori sollevano la piano piano, scaldata, perché anche la batteria ha di adesivo sotto. E niente, vabbè, mi è andata bene. Sono andato di sotto e alla fine. Però cavolo, da 20 a 200 euro, dice signora qua ci vogliono 200 euro per riparare il telefono, ma te ne rendi conto? Infatti io gli ho detto vada al centro Vodafone e gli dica che il telefono è stato riparato con molto molto meno. Oh, yeah. E la batteria l'hai dovuta mettere in tasca tua? No? Batteria, poi c'è il flat, quello che va attaccato sempre al connettore di ricarica, la scheda madre, in più il cavettino, che io l'avevo, la verità c'era bruciato, ma ho cercato di rimediarlo l'altro, ma purtroppo non faceva già, il problema era quello che non leggevo la SIM, e ho comprato anche questo coso, questo, come si chiama, questo cavettino, un cavettino da niente, proprio se lo vedi, cazzo, dice otto questo cavettino, e vabbè, pazienza, ma non me la levo dalle spalle, guarda. E quello c'è andato, va? Ah no, no, quello va in casso già, è in casso, tipo bottone, tic. Ah, ecco, via, quella pazienza, perché sono tutti i componenti piccolissimi, quel telefono. Ah, ultimamente sto anche sostituendo connettori di ricarica, non è facile, però chiaramente già me lo faccio, dai. Cioè ci sbaglia, più di una volta ho sbagliato, con telefoni vecchi, poi mi sono messo piano piano e più di uno ne ho riparato. Tipo c'è un tablet che era sempre nel cassetto, non si poteva rifare la verità, sono sincero, perché c'era il connettore in mezzo sollevato quando me l'hanno dato. E ne è saltata una pista. E di certo questo non si può più riparare, comunque mi sono messo bene una lente e gli ho messo praticamente un pezzettino di filo, un coso di filo proprio, un filo, uno. E l'ho saldato, l'ho fatto passare sotto e gli ho fatto la pista nuova. Gli ho messo un connettore, adesso carica benissimo. E buttarlo, ed è nuovo, un Alcatel, bellino, lo tengo a casa, funziona, cioè a venderlo non fa a venderlo perché usa 20-30 euro, ma lo tengo qua. E poi ho fatto un po', era la stessa cama con un paracchio della stessa cosa, si era aspettato tutta la pista, si era aspettata, che l'avevo unita, e ho faccio io, andavo benissimo. Ma Lidia è tutta un'altra cosa, lì è una cosa piccolissima, sottile, è una cosa molto piccola, e vabbè, l'ho sistemato comunque, e così mi è capitato un telefono, la stessa cosa, idem, e sta caricando adesso benissimo, e sono cose delicate già, purtroppo è così, ma se non è stata l'aria calda, non ce la fai, serato è l'aria calda per risaldarlo, e poi ci vuole un saldatore a punta sottile, non dico quanto è un ago, ma quasi, e poi devi avere il flussante, se non c'è quello. Dunque, attrezzatore ce l'hai tutte? No, ce le ho tutte, già sono un po' attrezzato, dai. Non c'ho spazio, quello sì, troppo non c'ho spazio, no. Organizzare bene, ma un ripiano mi faccio. Adesso cose bene mi assillo già. E poi è capitato anche il televisore, più di uno ne ho riparato, quelli lo stesso, comunque il saldatore micidiale. Lo metto a, non dico al massimo, ma quasi, mi risalda subito. Faccio lavori proprio fatti bene, puliti, il saldatore belle, no, con quei saldatori da 10 euro, no, c'è un abisso, non è un professionale questo, però già le fa belle saldature. Io ti apro un magazzino direttamente, te lo gestisci bene, ti fai un banco di lavoro e via, una bella lampada, ti illumini sopra dove devi lavorare. No. Allora adesso vabbè. È un casino. Non fa. Beh, vabbè, già stavo lavoricchiando, non mi posso lamentare. Allora va bene, c'è a passaparola, sì. A volte la pubblicità è meglio quella passaparola che quella che fa pagamento. Va meglio. Pong. Dovevo fare corsa, ma la buona prossima, ciao, buona cena. Avanti Giuseppe. Io Giuseppe sento facissimo del radio, che microfono stai usando? Di radio, sì. io e il pronomio abbasso, siamo passati già. E c'è uno, il Mickey King del 440. Oh, no, questo non è il 440 oggi, questo è l'altro. Però io stavo dicendo, ho capito, va bene Giuseppe, e comunque lascia tutto così, poi quando ci vediamo sabato ce le faccio io le regolazioni e poi fregate, adesso lascia tutto così, dai, avanti Luca, riprendi. No, hai ascoltato bene a Claudio, già, ha ascoltato benissimo. Sì. Poco fa, non è tanto forse la parola troppo vicino al microfono? No, già, io non parlo a me vicino al microfono, non tocco niente. Controlla che non c'è abbia l'NL inserito, qualcosa, perché intanto il tuo segnale è molto più basso del solito. Se 9.10, anziché 9.20, non ho capito perché, eppure anche questa è tratta la radio, perché Luca è 9.20, mi sta arrivando col segnale suo. No, non so. Hai abbassato il watt per attaccare il lineare, forse, non lo so. E io? Ah, ecco, allora rimetti i watt sui, vediamo. Togliamo il dubbio. No, io non tocco mai niente, né Mickey Gay, nulla, lo devo toccare. La distanza mia è sempre 50 cm dalla MC 60. Però già. Guarda, adesso 1, 2, 3. Sì, adesso segnale su. Ok, vabbè, l'avevo abbassato per me. Poi già. Giuseppe. Vai, vieni avanti, cosa ci racconti? Io già ti capisco, sì Giuseppe, però perché non è già troppo quello che fai, quindi non ti preoccupare. Se non riesci a parlare, non ti preoccupare, fregatene. Tu adesso non toccare niente, il segnale è 7-8, va bene così. Lascialo stare e poi sabato, quando salgo io, attacchiamo l'altro e facciamo le prove, salgo lo strumento e facciamo delle prove, capito? Evidentemente l'altro c'è anche una buona ricezione, comunque poi proviamola, attacchiamola. Avanti Massimiliano, ma mi ha detto Gianni che sto strappando, cazzo me l'hai regolata a due la radio. No, anzi, l'ho abbassata ancora un pochino, fra poco non esci più. Appena appena proprio più dell'uno, perché è troppo alta. Abbiamo messo gli occhiali, cazzo. Ecco qua, così è uno perfetto. Adesso glielo chiediamo, Giuseppe, ma in quarantena che hai montato? Hai per caso stazionari? L'hai provate con l'osmetro? Te le hanno provate? Stazionarie zero, va bene, perché poi con l'amplificatore è chiaro che magari appena aumentano, ma dovrebbero essere stabili. Ok, va bene. Gianni, così va meglio la radio. Gianni? Già adesso va meglio la radio, l'ho abbassata ancora appena. Sì, adesso sì. Ok, era 1.5, l'ho messo a 1. Questa è quella, l'altra, capito, non è 4.40. Ecco, è entrata anche in funzione la ventola, quindi a posto. Almeno sta funzionando tutto. Va bene, Luca, riprendi. Sì, io riprendo e vi saluto, ora che vado a cenare, sono qui tra voi, mamma mia. Mi mangiavo del bito, alla prossima, ciao, ciao Massimiliano, ciao a tutti, ciao cari, riprendi. Ciao Rogarie, dai, ci sentiamo, saluti a casa, vai Massimiliano. Grazie, grazie, altrettanto, ciao Massimiliano, altrettanto, ciao, ciao, ciao. Ciao Luca, ci sentiamo, allora, ciao, ciao. Cercate sentito tu. No, io non ci ho fatto caso perché stavo guardando, ho filmato su Facebook che c'era musica e quindi non l'ho sentita bene. No, solo fini ce li ha lì. No, è retto. Cioè, tu non toccare niente, già mi arrangio io sabato, capito mi hai? Amo San Trinda. E tu sabato invece andare a mangiare cavalli, vai a prelevare. Ah, lo so che sto scherzando, cosa ce li hai a casa tua, Munira? Se non c'è la tua moneta, chi ce l'ha? No, no, davvero Giuseppe, non toccare niente, lascia tutto così e poi quando vengo io sabato ti faccio lo spazio, mi controllo le stazionali, mi controllo tutto, così vediamo il lavoro che hanno fatto, se va bene, capito Giuseppe? E poi colleghiamo anche la terra di approvare cosa mi dica, già va bene, avanti già. Ehi, ehi, ma tu cosa pensi che sia? Il piede? Qualcosa c'è che non va, vuole andare io sabato, tanto stiamo tira e molla, perché la volta sono tu io, lui era perfetto, poi ha iniziato a metterci le mani, capito? No, volevo cambiare lineare, capito? Le do l'altro, quello più grosso, le do quello più grosso, le collego quello più grosso, così finalmente lo sentite, dai, perché quello lì è troppo piccolo, c'ha un 60-70 watt. Adesso le porto il 507 da 300 volte, vediamo se lo sentite. Sì, lo credo. E se no, certo, questa cosa non finisce più, adesso c'è l'antenna nuova, tutto nuovo. Ci mette l'amplificatore trasistorizzato, che ha visto 220, però trasistorizzato, senza alimentatore, senza niente. E così c'è tutto 220, l'alimentatore le attacco l'altro baracchino e le collego l'altro linearetto, quello piccolo. E così vediamo un po' se riesce ad arrivare come si deve a Sassari, capito? Va bene che va bene. Non ce la fai spettù, prenderò un paio di miei, non c'è nessun problema. Peccato quella radio c'ha il connettore come c'ha, se no ti avrei portato un MB più 5 e li avrei agganciato anche. Ma come fai? Tocca fare un lavoraccio lì, mamma mia. E aprire tutto a fare maschio e femmina come cristiani, capito? O me la porto giù con la radio e me ne vado da Gigi un sabato e lo facciamo. Perché lì non può agganciare nessun altro microfono, c'è il connettore di cui li attrappo, capito? Non può agganciare niente. Io il mio BP5 ce l'ho, quindi gliel'ho arrivato. Almeno schiaccia il BTT e si sente come cristiani. Anche più forte la modulazione, più tutto, capito? Perché lui ha anche problema col microfono da palmo. Non ci vediamo, ma ok, non mi porti via tutto lì, attacco lo gobra, così non ho problemi di lineare. Io avevo fatto uno io da 25 ampere 30 PFP già tiene. E c'è un Proxel da 25 ampere no, 30 è quello lì, cos'è da 25? 30 ampere, un Proxel da 30 ampere ha volato. 38 Giuseppe, quello che ho regolato io per i 80 al Proxel. Sì, 30-35 PP, sì. Non 30 ampere, quindi a voce. Vabbè. Vediamo sabato, vai, Massimiliano. Tu lo prendi impegno, io mi servo una mano, così viene a darmi una mano. Subito un po' pranzo, saliamo, la mettiamo tutto a posto e poi ci incendiamo. No, ma sì, ce l'ho in cucina, che mi cazzo gioca ancora con i pantaloni in mano. Sono salito da portare il cane, riprendi già. Io, vai a guardare il messaggio, vai. Ma io ho portato presto oggi, perché a luna, la verità, mi sono sdraiato sul divano a guardare il televisore, mi sono costrumito e non l'ho portato a luna, quindi sono sceso verso le 5 e mezza, poi ho trovato l'amico e siamo trattati sino a tardi. Poi sono salito su e sceso la radio, capito? Poi, io a 8 ho quello, le do quello lì, che funziona molto bene, capito? Perché poi c'ho l'MVP5, quello me lo tengo perché mi ha fatto la datatore per tutte le radio, per il Galaxy, per il DAC, per la LAN 48, per l'altro, capito? Per il punk e per il Cobra. Quindi quello non lo posso togliere, però l'MB4 non lo uso quasi mai, capite? C'è un connettore Kenwood, lo stacco e posso tranquillamente dare quello. E secondo me ci vuole la radio, sì. Adesso domani chiamo Andrea a vedere se me lo fa. Se me lo fa, prima sabato andiamo e le metto tutto in sesto. Se me lo fa col microfono, se mi dice che va bene col microfono normale, che lo fa uguale a quello, capito? Brubo tu va, perché non ci vedo a saldare quelle punte, Massimiliano, ma manco per le balle, neanche con gli occhiali ci vedo. No, Andrea, proprio lo entra dentro il filo, c'ha la pazienza, te lo ricordo che l'ha fatta a me. Lo entra dentro, ci mette lo sterno, lo entra dentro e poi scalda e bene, giusto il filo, perfetto. Sì che c'è la GBC e l'Alghero. Attiva la GBC e l'Alghero, Giuseppe. Nel mio ce n'è quattro, sì. Ma nel tuo è quello a spinotto che si entra dentro nella radio grande, capito? E Giuseppe, prima le facevi quando avevi 50 anni. Adesso non ti dimenticare che ne hai quasi 90. Quindi fai da bravo. Già lo faccio io quello, non ti preoccupare. C'ho un amico che me lo fa, mi prendo il microfono normale e te lo faccio un microfono da tavolo, capito? Te lo regalo io, non ti preoccupare, già ce l'ho io un microfono da tavolo, Giuseppe. Dici? Ma amici c'è la GBC, Giuseppe? Si tratta di attaccare un connettore, se loro ce l'hanno, capito? Per non stare con questa radio vai e vieni, mi. Per non stare con la radio vai e vieni. Vabbè, già ne parliamo sabato, Sabato ne parliamo e vediamo un po' se riusciamo a combinare. Comunque il microfono ce l'ho io, te lo regalo io. Ok, è nuovo, una MB4 da tavolo. Capito? Te lo do io e lo attacchiamo a quella radio lì. E così non stai con questo microfono in mano, esci molto più forte di radio. E sicuramente riusciamo finalmente a chiudere questo capitolo, perché col lineare più forte, il microfono che solleva di più la radio, tu che hai un po' di difficoltà a parlare, sicuramente risolviamo il problema. Anch'io quello, però adesso una volta che sono lì poi ne parliamo, perché così intanto non ci capiamo, vediamo se riusciamo a combinare e si fa tutto lì, capito? in macchina c'avevo un apparecchio io, un Midland, che quando tirava il microfono riusciva, magari stavo parlando e riusciva lo spirotto fuori. Tu come tiravi, ti riusciva lo spirotto. Ma infatti quello io sto dicendo, capito? Oh Massimiliano, troppo bassa adesso è con il mio BP5. Ma devo sollevare o la lascio stare così? No, l'ho abbassato, l'ho messo a 4 il potere diametro, prima te me l'avevi fatto mettere a 5, siccome ho abbassato anche il micchino adesso. Non posso usare attacca e tacca MC60 da uno all'altro. Qua ci rimane un microfono e basta, non va bene così. Ecco qua, ho aumentato appena appena, beh va. E ho voglia, anche se la sento profonda come voce, la sento di diversa. È un 9BP5 questo, è su un K, quindi. Sì, sì, tutti chiusi. Così aperto a uno. Così a uno il tono. Così a uno. Così è migliore. Col tono a uno. No, ce l'ho a uno. Ce l'ho a uno. No, a uno e mezzo. Non l'ho toccato, ho sollevato questo. Ecco. Adesso ho sollevato appena appena. Come va? Guarda con i toni a 2. Allora se sta così, almeno anche questo è regolato, lo lasciamo stare così, già va bene. Già bene va. Prova avvicinati, perché ha fatto un passaggio che sembrava con le MC60. Fatto, lasciamola così, e quel passaggio lì si è sentito tutto come se fosse con le MC60. Prova avvicinati al microfono un po'. Allora, questa è la distanza che uso con le MC60, 30-40 cm, dai. Inteso, Massimiliano. Oh, così è. E allora lasciamo stare così, dai. Allora, c'ho i toni a 2, prima accelero a 0. I toni a 2, il volume del MB+5 è a 4, e il mic gain della radio è a 1. Questa qui è la lontananza che deve avere dal microfono, è la giusta lontananza che deve avere, perché ho notato che tu stavi parlando e un pelino si è sentito così, e sicuramente questo qui è come si è spostato. Sì, vabbè, mi sono girato, questa è la distanza standard che io uso con l'MC60, dai, 30 cm. Va bene, no, i toni non li avevo toccati, pensavo che non erano da toccare, invece va bene così, lo lascio stare così. Non manco un logo, attacca, attacca, microfono, perché l'altro non ce l'ho. Non ce l'ho, l'ho dato, adesso devo recuperarmi l'altro che è a casa di una persona e andare a prendermelo. Massimilia, se mi dici che va bene tu, va bene. Gianni ha detto va bene, ma sicuramente tu sei un po' gaido più pignolo, quindi la lasciamo così, dai, un microfono di fortuna. Va bene, K, allora lasciamola stare così, dai, tono a 2, volume a 4. Mickey Gendel di questa radio la lasciamo a 1, così quando attacco il 60 va bene, se no sto tira e molla, capito? Che se no strappa dopo. Allora, così è tra il 3 e il 4. Mi va meglio così. No, tocco più nulla, io la giusta tira e molla, già sono stantio a chiedere il controllo, però oggi ne avevo necessità perché stavo facendo un po' di regolazioni con questa radio, capito? La lasciamo stare così, dai, Tony a 2, il volume è tra il 3 e il 4 e Michigin a 1, va bene. Così è la tua voce. Quella mi interessa, che si assomigli, dai, che poi ci sia differenza da un più 5 a un 60 è normale, però che si assomigli un po', dai. Va bene, non ti preoccupare. Ok. Allora confermato Massimiliano, vieni a farmi compagnia. Sì, dai, collego queste cose, do uno sguardo un po' in generale, poi perché Valerio ha un altro messaggio che non può scendere, capito, sta settimana è impegnato, poi non sta bene, c'ha questa gamba che le fa male e allora non può scendere, e allora andiamo noi, dai, già va bene, già va bene. Va bene Giuseppe, va bene, tutto allora sotto controllo, ok? Non ti preoccupare, già sarai più Claudio. Mi dà una sussa a quella scrivania, venisse da poco di roba in altra scrivania. Mi toglimi tutto, mi. Quando arrivo io non voglio trovare niente, non me ne vado a gatta, pupazzi e pupazzetti. Natalino è tratto. Natalino ti ha mandato un messaggio a te, o ti ha telefonato. Poi ha mandato un messaggio a me. Natalino non entra più in radio, ok? Ha deciso, basta. Appena è pronto toglieremo l'antenna, quindi scordati Natalino perché non entra più. Ci ascolta volentieri, ma non entra. Ok? Entra in dinanzi la moglie, un chita goza, e non va bene così. Ci sono troppe minacce, troppe cose, e quindi ha deciso così e fa bene, punto e basta. Poi, a prescindere Natalino che non è entrato, è entrato Valerio, Giuseppe, te lo ascolto bene adesso, Massimiliano c'è tutta la sera, Gianni, Luca, è in entrata di gente. Oh, ha deciso così. E quindi tutta la fatica fatta da te e Massimiliano, tutta in fumo, così che? Sì, Marco, ne metteremo un'altra di antenna e quella si toglie, è troppo bassa. Lì per andare bene bisogna aumentare di almeno 3-4 metri, però io anche se faccio quel sacrificio di aumentarli di 4 metri, ci vogliono i tiranti, deve salire sul tetto lui a mettere i tiranti. Sul tetto non lo fanno salire, cosa facciamo allora? Quindi tanto vale togliere e basta. Brutta situazione e brutta prospettiva. Ma brutto però quando uno si arrende. Vabbè, poi alzandola, non lo so, anche alzandola non è detto che non pigliano disturbi quelli, se dipende da questi, da loro, non ha detto che non prenderò disturbi, vabbè, purtroppo, un macello, poi a sottoccio goduto e suonato, non vedevo l'ora di sdraiare la schiena. Marco, non è questione di arrendersi o meno, cioè una persona che vuole stare tranquilla e serena, Natalino ha problemi al cuore, non è che la moglie deve stare con l'ansia per questo baracchino, deve rimanere sempre un hobby, ricordiamocelo, mai una cosa che ci può creare problemi, a tutti in generale parlo, deve rimanere un hobby, se l'hobby è una cosa di rilassamento va bene, ma se questo hobby diventa poi uno stress, un continuo bisticciare, un continuo avere lamentele, un continuo sfidarsi, capito, provocazioni eccetera, non va più bene, quindi la decisione di Natalino io la approvo, è abbastanza drastica, però la approvo perché è così, capito, non è che può stare, lui l'ha fatto per stare in compagnia, per ammazzare un po' il tempo, ma la cosa sta diventando un pochino troppo sporca, quindi la decisione che ha preso io la approvo, si toglie tutto, si mette un altro antennino per fare due chiacchiere con noi, noi lo sentiamo, chi non lo sente si bolle dei gufi, cosa devi fare? Via, dai che mangio, dai, un attimino. No, mangia, io sto chiudendo, io aspetto che arrivi Massimiliano, si è messo l'acqua, poi chiudo perché mi ha già chiamato mia moglie, sono 9:15. Quindi direttamente di tutti salutati, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, come faccio sempre, un saluto circolare a tutti e alle prossime trasmissioni. Mi risponde Marco, anche l'altro giorno siamo rimasti sino alle 9, Massimiliano, mi fa piacere, però Anna mi ha già chiamato che è pronto, non c'è manco l'aria stanotte, quindi ceniamo e guardo un po' di TV, c'è tutta la sera in radio, Fendi e rifendi, quindi già va bene, dai. Già scaldato per oggi, ci aggiorniamo domani al telefono Massimiliano, ok? Saluti a casa e ci sentiamo, ciao Marco e ciao a tutti. Ciao Massimiliano, alle prossimine, ciao. Leia, ciao a tutti, ciao, buonanotte a domani. Ciao Marco, buonanotte a domani. Eia.